Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Elezioni in Gran Bretagna. Beh, e devo dire, l'America sta seguendo con una certa attenzione queste elezioni, c'è molta attenzione, non è chiaro chi vincerà, perché si pensa che anche se David Cameron dovesse avere una maggioranza di seggi in Parlamento, forse non riuscirà a formare un governo, ad avere una maggioranza. L'alternativa? Beh, l'alternativa sarebbe quella di avere come nuovo primo ministro Ed Miliband, un volto nuovo, ma un aspetto interessante con cui si segue questa elezione in America e che sembra riprodurre alcune delle disfunzioni che sono tipiche di alcuni sistemi politici, per esempio quello italiano, dove ci vuole tempo per capire qual è la coalizione che può davvero governare. E io però vorrei concentrare la mia attenzione su queste elezioni britanniche per darvi un côté americano molto particolare, e cioè Ed Miliband, come forse molti di voi sapranno, è riuscito a spodestare con un colpo di mano il fratello David Miliband, che era stato ministro degli esteri in un precedente governo e che aveva la leadership del partito assicurata. Lo ha spodestato, lo ha defenestrato grazie all'aiuto dei sindacati. E allora c'è da chiedersi che fine ha fatto il fratello di Ed, David, devo dire un personaggio molto interessante, di grandissima statura politica, di grande levatura intellettuale. Beh, David è venuto a New York con un biglietto di solo andata per dedicarsi a che cosa? Alla filantropia. Filantropia di cui vi parlo spesso. E dunque, nel momento in cui in Gran Bretagna ci sono queste elezioni politiche importanti, e noi qui con David Miliband, fratello del potenziale primo ministro britannico, parliamo di questa dimensione filantropica nella quale si è immerso. Perché è venuto a New York? Per guidare la International Rescue Committee, che è un'organizzazione umanitaria non governativa, pensate, fondata addirittura nel 1933 su input di Albert Einstein. La missione è quella di offrire aiuto e sostentamento ai rifugiati di guerre, agli sfollati, alle vittime di disastri naturali. Pensate, a una disponibilità di fondi di 614 milioni di dollari all'anno, 350 persone ai quartieri generali, 169 uffici sparsi attorno al mondo e la bellezza di 15.000 persone impegnate in prima linea. Dunque, saluto David Miliband il giorno di queste elezioni britanniche parlando di quello che è un suo diverso impegno politico, in attesa di sapere se suo fratello diventerà questa sera primo ministro. E dunque gli chiedo intanto che tipo di missione sta svolgendo dopo il suo ritiro dalla politica attiva. Un tipo di missione che ha ed avrà sempre più un ruolo chiave a livello internazionale. Lei sa bene qual è il ruolo del settore non profit, diciamo del settore umanitario, raccogliere i pezzi, quando la politica non riesce più ad andare avanti, quando la politica fallisce. E ci sono una gran quantità di fallimenti politici, di vecchie guerre che continuano facendo vittime civili e nuove guerre che stanno iniziando, aumentando le sfide e i problemi. Le conseguenze umanitarie di questa spirale sono molto reali e penso che le conseguenze politiche siano ugualmente molto serie, perché è ovvio che una crisi umanitaria è causa di instabilità politica. Quante persone avete sul campo? 15.000 direttamente sul campo, ma sono volontari oppure sono pagati? Loro sono tutti pagati, lavorano in posti molto remoti e sono principalmente persone del posto. Tra loro non c'è nessun lavoratore occidentale, è tutto personale locale. È possibile che dare lavoro e stipendi a, diciamo, a locali, a gente del luogo, faccia parte della vostra missione? Certo, lo scopo è quello di creare un serbatoio di risorse a livello locale, così siamo direttamente a contatto e a conoscenza del territorio. La nostra missione viene accettata meglio dalla comunità perché evidentemente siamo lì a lavorare, sia che ci sia l'ISIS o Boko Haram. e avendo bisogno di protezione abbiamo imparato che la protezione non può essere solamente protezione militare. La popolazione locale ci aiuta a difenderci. Lavoriamo contro l'epidemia, ad esempio c'è un forte impulso ora che mira a ridurre l'Ebola a zero, anche se non siamo ancora a quel punto. Per combattere l'Ebola abbiamo oggi 500 persone della nostra organizzazione che lavorano in Sierra Leone e 400 in Liberia. Siamo molto legati alla comunità locale e riteniamo che la risposta all'Ebola abbia messo troppo l'accento sul trattamento medico e sulla creazione di centri di assistenza, piuttosto che sull'educazione e sul coinvolgimento della comunità. Ecco, come gestite la struttura operativa a parte il ruolo dei quartieri generali? Alcuni dei nostri specialisti in Africa sono a Nairobi, altri a Ginevra, altri ancora sono invece a Londra. Ma per le operazioni sul campo abbiamo in genere una struttura regionale, una struttura centralizzata nel paese da assistere e uffici sul campo. Abbiamo attualmente 169 uffici sul campo che rappresentano le unità organizzative e operative di prima linea. Da dove arrivano principalmente i vostri fondi? Siamo fortemente dipendenti dai fondi pubblici. L'85% dei nostri fondi arriva dal governo, il che è molto bello. Ma abbiamo anche bisogno di un sostegno privato molto forte, perché il sostegno privato è molto più flessibile e innovativo. Dobbiamo puntare di più sui privati. In Italia abbiamo attualmente un donatore che ho incontrato personalmente, davvero una persona adorabile, il signor Drago, se lo pronuncio bene. Certo, mi piacerebbe avere i contributi e l'appoggio di molti più italiani. In ogni caso, per la prima volta abbiamo un buon funzionamento a livello europeo, con lo sviluppo di una struttura specifica per l'Europa. Del resto, questa organizzazione ha origini europee e proprio l'Europa e i governi europei sono il secondo più grande donatore per gli aiuti umanitari. Ecco, con il vostro bilancio di oltre 600 milioni di dollari all'anno, siete fra le più grandi, forse la più grande organizzazione non governativa al mondo. No, guardi, Save the Children è tre volte più grande di noi e World Vision, l'organizzazione evangelica, ha un bilancio annuale di 2,8 miliardi di dollari. Non so da dove arrivino i fondi per Save the Children, ma so che World Vision li prende dalle congregazioni che riuniscono tutte le chiese d'America. In Italia c'è la Caritas, vero? Comunque sia, il nostro obiettivo è quello di formulare istituzioni strategiche per riformare il settore umanitario. Quindi, ad esempio, ci vogliono risultati più chiari, verificabili e un miglioramento dei programmi. Siamo interessati ad avere una leadership forte che possa cambiare le cose. Qualcuno dice che l'Europa sia indietro dal punto di vista filantropico. Ecco, è solo una questione di differenza nei vantaggi fiscali o c'è qualcosa di più? In Europa ci sono minori vantaggi fiscali, ma ci sono donatori molto generosi. C'è però un quesito centrale su cui ragionano gli europei, e cioè se la filantropia si deve aggiungere alla quantità totale di denaro pubblico diretto agli obiettivi umanitari, o le donazioni private si debbano sostituire ai contributi pubblici, riducendo l'esborso statale. Questo è un punto chiave per il quale ho una risposta molto chiara. Occorre che i governi europei tengano duro, chiarendo ai cittadini che non gli stanno chiedendo di fare donazioni al posto loro. In fondo, l'1% della spesa pubblica dovrebbe andare per mandato agli aiuti internazionali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, elezioni in Gran Bretagna, abbiamo avuto un po' un fil rouge tra un fratello newyorkese, David, che cerca di fare del bene nel mondo, e un fratello che cerca di diventare primo ministro. Dunque, degli Arcadia, Election Day, il giorno delle elezioni. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.